Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, eccoci di nuovo insieme per questo inizio di settimana. Naturalmente, come promesso settimana scorsa, il tema che abbiamo scelto per questo nuovo avvio appunto di settimana di Salva Danaio è l'IMU, l'ultima settimana per pagare. Chi deve pagare l'acconto di giugno ha ancora qualche giorno di tempo per completare la procedura e chiarire gli eventuali dubbi. L'appuntamento è saltato per gli immobili assimilabili ad abitazione principale, per i terreni e i fabbricati rurali, e resta invece valido per tutte le altre categorie. In particolare i più colpiti sono i proprietari di fabbricati produttivi, dei negozi e capannoni industriali, che vedono anche aumentate le quote da versare rispetto all'anno scorso. Va poi fatta molta attenzione, non finiremo mai di ricordarlo, nel distinguere il concetto di abitazione principale da quello di prima casa o unica casa. Salva Danaio torna dunque anche oggi, come promesso, ad illustrare le novità, aiutando gli ascoltatori a definire il perimetro della sospensione, spiegando le regole per il calcolo delle rate e le modalità di pagamento. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande in diretta. Cristiano Dell'Oste, bentornato, buongiorno. Buongiorno. Anche oggi in edicola con il sole, naturalmente una guida per chiarire i dubbi degli ultimi praticamente, anzi gli ultimi dubbi, se ce ne fossero. In realtà ce ne sono ancora parecchi, peraltro mi stavo chiedendo se nell'ultima settimana fossero arrivate dall'Agenzia delle Entrate, non so da chi, note di chiarificazione su qualche argomento rimasto in sospeso. No, per il momento no, non abbiamo chiarimenti dell'ultimo minuto. In realtà poi le questioni aperte sono ancora tante e si pongono in questi giorni, anche perché negli studi professionali, ma anche dai CAF, insomma, sono proprio gli ultimi giorni quelli che vengono utilizzati per compilare il grosso degli F24 per i pagamenti. Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'Associazione Geometri Fiscalisti, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Abbiamo naturalmente, e lo ricordo, una promessa da rispettare, da esaudire appunto anche con lei, perché settimana scorsa era uscito fuori, poi lo riascolteremo, un tema posto da un ascoltatore di Napoli, Filippo, che come dire chiedeva qualche commento relativamente alla riforma della tassazione sulla casa. Si andrà verso una maggiore equità per tutti i contribuenti? Poi vi rifaremo riascoltare appunto questo ascoltatore, siccome non avevo consentito a Mirko Mion di esprimere nessun tipo di ragionamento su questo tema, naturalmente oggi glielo faremo fare. Per il resto, vi ho già ricordato il numero verde per intervenire in diretta, tutte le modalità alternative che avete per interagire con noi, 349-238-6666 per i vostri messaggi. salvadanaio@radio24.it, l'indirizzo di posta elettronica a cui ci potete scrivere. Siamo su Facebook all'indirizzo, al profilo salvadanaio-radio24, siamo anche su Twitter, per cui non vi possiamo sfuggire. Adesso rapidamente la borsa. La diamo molto velocemente, magari partendo dalle buone notizie. Tokyo stamattina è rimbalzata prepotentemente del 5%, ha chiuso bene anche venerdì scorso Wall Street, anche se il dato sulla disoccupazione è stato letto in chiaro scuro. L'economia americana a maggio ha creato più posti di lavoro del previsto, ma complessivamente, per tutta una serie appunto di meccanismi economici che si instaurano, il tasso di disoccupazione a maggio negli Stati Uniti è cresciuto al 7,6%. L'Europa è contrastata, va molto bene Francoforte, più 0,9, mentre è negativa Parigi, meno 0,02, è passata in positivo Londra, più 0,10%, mantiene il territorio negativo Piazza Affari, che cede lo 0,22%. Bocciature stamattina da più fronti per Telecom e da parte di molte società di analisi. Il titolo perde il 2,41%, Fiat in calo di 2 punti, Eni meno 0,9. Scatta invece da stamattina Fondiaria, più 4,80%, perché secondo il Sole 24 Ore, il finanziere americano Warren Buffett avrebbe addirittura espresso dell'interesse per l'acquisizione di alcuni asset molto importanti del gruppo, asset in vendita del gruppo UnipolSai. In particolar modo Warren Buffett avrebbe espresso dell'interesse per il marchio Milano Assicurazioni. Direi che possiamo lasciare subito la borsa, andare al tema di oggi, IMU, ultima settimana per pagare. Resta una settimana per pagare l'acconto dell'IMU 2013. L'appuntamento, saltato in seguito alle decisioni del governo per quanto riguarda le abitazioni principali, i terreni, i fabbricati rurali, resta valido per le case di pregio, le seconde case, ma anche per negozi, uffici e capannoni. In tutto si tratta di circa 30 milioni di immobili e la tassa complessivamente dovrebbe portare nelle casse dello Stato 10 milioni di euro. Il pagamento avviene tramite il modello F24 ordinario o semplificato oppure con un bollettino di conto corrente postale. Chi paga, pagherà di più dell'anno scorso. Da un lato perché si paga, nella maggior parte dei casi, con le aliquote comunali del 2012, che sono più care di quelle base usate per l'acconto dell'anno scorso. Dall'altro perché alcune categorie, nello specifico i fabbricati produttivi, vedono salire il moltiplicatore catastale da 60 a 65. Una magra consolazione c'è, la procedura è un po' più semplice. Se nel 2012 bisognava dividere il gettito tra Stato e comuni, specificando differenti codici tributo, quest'anno tutto viene versato ai comuni e serve conoscere un unico codice. Eccezione fatta anche in questo caso per la categoria D, quella dei fabbricati produttivi, dai cinema agli alberghi, dai capannoni, ai negozi e agli uffici. Le imprese, quindi, che alla fine dei conti risultano essere le più tartassate da questo nuovo appuntamento con la tanto discussa imposta municipale. 800 24 00 24, il numero verde al quale vi state già prenotando in tanti per intervenire in diretta, segno che tutti i dubbi non sono stati ancora completamente fugati. Tra l'altro Cristiano Dell'Osso, un ascoltatore che già stamattina mi sta scrivendo da molto presto, Enzo, ci scrive se l'IMU per la seconda casa, quindi chi la versa, la può pagare direttamente con il 730 in dichiarazione dei redditi. Allora, questo è uno dei punti che ha creato un po' di difficoltà, perché ci sono stati contribuenti che avevano utilizzato il credito IRPEF, appunto derivante dall'imposta sui redditi nel 730, per pagare l'IMU sull'abitazione principale, salvo poi scoprire che il pagamento è stato sospeso e quindi si è creato un problema. Ma diciamo che in linea di principio sulla seconda casa, se c'è un credito nel 730, non c'è nessun problema, lo si può portare appunto in pagamento per l'IMU. Benissimo, tra l'altro quella questione appunto che tu ricordavi è stata poi in qualche maniera risolta da chi doveva chiarire appunto questi aspetti. Per chi ha già versato teoricamente ma poi ha scoperto che non doveva farlo, in qualche maniera come rientrerà indietro di questo? Ma diciamo che chi proprio che abbiano versato, secondo me non c'è quasi nessuno, perché la sospensione del governo è arrivata insomma all'inizio di maggio, quindi penso che poche persone avessero già pagato l'IMU. Nel caso hanno maturato un credito nei confronti del comune, che con le procedure stabilite dai diversi comuni, perché qui c'è autonomia, è possibile recuperare. Ci sono addirittura comuni che consentono di recuperarlo da altre imposte, se ci fosse un credito IMU. Sono casi piuttosto rari, però diciamolo. Mirko Mion, quali sono invece i suggerimenti di AGEFIS, l'associazione appunto dei geometri fiscalisti, per arrivare alle 17 senza troppo carico di preoccupazioni addosso? Quali sono gli ultimi dubbi dal vostro versante appunto da chiarire? Sicuramente la verifica corretta della definizione di abitazione principale ai fini IMU, perché come diciamo in questo ginepraio di rincorrersi di modifiche e di sospensione, il contribuente è andato incontro lui stesso ad una confusione. Ricordiamo sempre che quindi il presupposto fondamentale è quello del diritto di proprietà, oppure di un diritto reale come il diritto di abitazione piuttosto che l'usufrutto, e poi devono convergere i due elementi oggettivi della residenza e del domicilio. Da questa sospensione sono praticamente abbonate quindi tutte le cosiddette prime case, le abitazioni principali, che come si diceva tranne quelle accatastate in A1, A8 e A9, quindi quelle possiamo definire signorie, castelli, anche se sono abbastanza poche. Ricordiamo altresì il concetto del numero massimo, sempre ai nostri contribuenti, delle pertinenze che si possono abbinare alla cosiddetta abitazione principale, ponendo molta attenzione a quelle pertinenze che sono accatastate all'interno della stessa unità immobiliare. Quali possono quindi essere, ad esempio? Possono essere quindi la classica cantina o il box o la soffitta. Anche qui in una circolare dello scorso anno il legislatore aveva dato l'opportunità di inserire fino anche a due pertinenze con la stessa categoria, allorquando fossero catastate all'interno della stessa unità immobiliare. Qui mi permetto di dire che ci va un'attenta lettura della planimetria e sicuramente l'occhio attento di un professionista, in questo caso ritengo un geometra, soprattutto colui che ha come dire, accatastato, ha fatto la procedura di accatastamento della casa, potrà dare una risposta corretta e coerente a questo tipo di applicazione. Certo. Laddove ci fosse una pertinenza che non può rientrare in questa casistica, dovrà essere assoggettata all'aliquota ordinaria, quindi non solo pagherà un'aliquota maggiore, ma non potrà usufruire della sospensione del pagamento della prima rata del 17 di giugno. Una questione che era uscita, se non mi ricordo male, anche nella trasmissione di lunedì scorso, quella relativa ai terreni agricoli. Serena su Twitter ci scrive: lo giudico pazzesco, i miei devono pagare 186 euro per terreno intorno alla loro prima casa, non stiamo parlando di ettari, è un modesto orto, eppure anche per questo piccolo appezzamento di terreno va pagata l'IMU. Cristiano, questo non è un problema tanto di terreni agricoli quanto più che altro di aree pertinenziali all'abitazione, nel senso che per quanto riguarda i terreni agricoli c'erano una grossa fetta di aree che erano già state esentate, sono quelle definite da una vecchia circolare del 93 e come tali sono sempre rimaste esenti. Per tutti gli altri è scattata la sospensione. C'è però il problema, diciamo, di tutti quegli spazi che sono intorno alle abitazioni e che molte volte non hanno una rendita autonoma, come per esempio il cortile o il giardino. Se però questi spazi hanno una rendita e sono qualificati come edificabili, perché magari il piano regolatore... Quindi per esempio il caso dell'ascoltatrice potrebbe, che ci ha scritto, potrebbe essere questo, sì, perché è tipicamente l'orto si trova in zona urbana e quindi se è abbastanza grande, pensiamo a uno spazio adibito a giardino o a frutteto, è proprio uno dei casi tra l'altro che affrontiamo nella guida di oggi. Ah. Se in questi casi c'è una rendita autonoma e quindi quel pezzo di terreno ha di fatto una capacità reddituale, allora diventa soggetto a IMU. E invece Carolina ci scrive: io stamattina sono partita subito a razzo leggendovi e facendovi sentire già i nostri ascoltatori, così almeno, visto che la trasmissione vuole dirimere gli ultimi dubbi, lo facciamo a beneficio di tutti. Carolina ci scrive: volevo sapere, Mion, questa la giro a lei, per un'azienda se deve pagare l'IMU per un terreno agricolo, quindi anche in questo caso, visto che siamo in linea con appunto il tema toccato con Cristiano, l'anno scorso, dice questa ascoltatrice, l'abbiamo pagato con questi codici tributo 3914 3915, le dicono qualcosa? A parte i codici tributo, allora la formulazione è quella dell'esenzione del pagamento di tutti i terreni agricoli. Qui interviene però una seconda questione, che è quello dell'utilizzo effettivamente poi ai fini agricoli di questo fondo, e quindi deve essere condotto da un cosiddetto imprenditore agricolo professionale, quel che viene definito uno IAP, cioè colui che dedica le attività agricole almeno il 50% del proprio lavoro e da questo ne ricava almeno il 50% del reddito. Quindi se questi signori hanno la proprietà di un capannone con un fondo adiacente, ma questo fondo non viene utilizzato ai fini agricoli, questo fondo sarà soggetto al pagamento dell'IMU. Quindi insomma veramente bisogna, anche se siamo nella totale certezza di non dover pagare, è meglio che per casi un po', come dire, al limite si faccia un controllo, un accertamento, perché magari invece scopriamo la sorpresa, la sorpresona. Allora, Simone della provincia di Prato, il nostro primo ascoltatore all'800 24 00 24. Simone, buongiorno, anche qua un altro caso particolare, buona giornata. Sì, buongiorno Deborah. Senta, io volevo un chiarimento su un immobile che ho acquistato praticamente ad un'asta. Sì, quando intanto, Simone? L'ho acquistato circa l'anno scorso, dall'anno scorso di agosto. 2012. Mm-hmm. Allora, praticamente questo immobile è gravato da un diritto di abitazione di una signora. Ora, io volevo capire se l'IMU era in carico a questa signora che ha praticamente l'effettivo uso dell'immobile, o era gravato su di me, che per lei praticamente sarebbe prima casa e quindi in teoria è sospeso, però per me sarebbe seconda abitazione e quindi se grava su di me dovrei pagarlo. Ecco. Ma Simone, lei ci aveva già chiamato anche nei giorni scorsi, perché se non mi ricordo male avevamo già avuto un altro caso. L'avevo chiamato, però non era riuscito a mettermi contatto. Perché allora mi sto confondendo con un altro caso probabilmente simile. Qui sta all'asta con una, in realtà avevamo il caso appunto di inquilini, poi qua non so che tipo di accordo ci sia, che in realtà proprio non volevano andarsene. Detto questo, Cristiano dell'Oste, cosa deve fare? Chi paga in questo caso? Paga il titolare del diritto di abitazione in questo caso, quindi non il nostro ascoltatore. all'ascoltatore, ma alla signora. Tra l'altro è un tema abbastanza comune che si pone in molti casi. Ci sono anche delle situazioni simili, per esempio possiamo fare l'analogia tra il proprietario che ha soltanto la nuda proprietà e l'usufruttuario. In questo caso paga l'usufruttuario. Oppure ancora, però per la nuda proprietà uno che fa una compravendita di questo tipo sa bene che c'è una persona che abita lì per l'acquisto della casa all'asta, chiaramente magari qua uno può trovarsi anche in una condizione diversa, non so poi se l'ascoltatore l'avesse stabilito sin dall'inizio, mediamente qualche volta gli inquilini non se ne vogliono andare. Beh no, attenzione, l'inquilino non ha mai un diritto reale, Il diritto di abitazione è un diritto reale, quindi è un qualcosa che risulta dagli atti dei registri immobiliari, dallo stesso rogito, insomma. Un altro caso che si può porre, che si pone molto spesso, è quello del diritto di abitazione del coniuge superstite. Praticamente il caso tipico è quello della vedova che è proprietaria solo di metà della casa, l'altra metà è dei figli o del figlio, e però in questo caso, siccome la vedova ha il diritto di abitazione su tutta la casa, l'IMU la paga tutta lei, anche se possiede, diciamo tecnicamente, solo metà della proprietà. Chiarissimo. Io sono un proprietario di un secondo immobile con un reddito basso. Volevo sfruttare questa telefonata per avere anche il parere vostro su un discorso proprio di equità. Questa legge sull'IMU, sulle seconde case, in che modo può essere migliorata? Proprio per un concetto di equità. Chi paga? Cioè, magari ci sono tante persone, io la contatto da Napoli, che magari sono disoccupati e sulla seconda casa ci fanno vivere una famiglia, certo. Dovrebbero permetterci di detrarre comunque quelle che sono le spese passive, dovrebbero fare un netto distinguo tra chi magari guadagna 10.000 euro al mese e ha quell'appartamento rispetto a chi magari è disoccupato oppure ha un reddito basso. Mirko Mion, presidente di Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti. La scorsa settimana, ascoltando il commento dell'ascoltatore di Napoli, Filippo, che oggi abbiamo riproposto, l'avevamo un po' frustrata perché non avevo avuto appunto il tempo per farla commentare sul tema del futuro della tassazione sulla casa. Entro la fine di agosto questo governo si è dato questo impegno di riformularla tutta integralmente, e chiaramente i contribuenti chiedono una maggiore equità. C'è chi vive con la proprietà di una seconda casa perché magari non ha altri redditi in questo momento così complicato e evidentemente stanno denunciando adesso una tassazione eccessiva. Lei condivide questa posizione di questo ascoltatore? Condivisibile secondo lei? È assolutamente condivisibile, insomma lui infatti chiede come può essere migliorata. Innanzitutto sì, ci sono questi due step, uno immediato, quello del 31 di agosto, che rende quindi che ci possa essere la sospensione della prima rata, e poi sicuramente a mio avviso quella che dovrà essere una riforma più complessiva dell'applicazione della fiscalità immobiliare. In particolare è abbastanza evidente che il problema sollevato da Filippo, l'ascoltatore napoletano della scorsa settimana, riguarda un pochino tutto il comparto immobiliare e tutto ciò si estende a quella che è l'iniquità della modalità attraverso le quali viene applicata l'IMU. Questo perché è tutto calcolato su una matrice appunto di calcolo malata, cioè la cosiddetta rendita. I moltiplicatori che sono stati inseriti per l'IMU, quindi 160 per le abitazioni piuttosto che 60/7/65 per i cosiddetti opifici, non hanno fatto nient'altro che allargare la forbice di questa iniquità. Io quello che mi sento di dire, per rispondere ai milioni di Filippo che si sentono vittime in questo momento di queste strutture, è che è necessario avviare sin da subito la riforma del catasto, tant'è vero che anche il 4 giugno il dottor Befra dell'Agenzia delle Entrate ha auspicato quanto prima lo start-up di questa fase. Per la verità sento di dire che questo è un auspicio che viene proposto da almeno 3 o 4 anni, perché mi pare che adesso il disagio sociale sia talmente elevato che sia necessario, assolutamente incontrovertibile, l'avvio di questa fase, ecco, anche andando un pochino a riesumare ciò che era contenuto all'interno della delega fiscale, che aveva già fatto una serie di passaggi parlamentari, crollati poi il 12 ottobre come ultimo momento per venir meno del governo Monti. Ma se mi è permesso, quindi io vorrei dare un paio di risposte concrete all'ascoltatore, ma io dicevo ai milioni di ascoltatori, che noi abbiamo proposto come Agefis e come geometri fiscalisti in chiave catastro, che anche qui insomma è la casa, è la patria storica del gioco. geometra, sin dal 1886, quando nasce il primo catasto italiano, se ne sono occupati i geometri. La prima proposta è quella di andare a riclassare le categorie obsolete, come le A4, le A5, le A6, le A6, che nascondono all'interno di quelle che sono cosiddette case popolari accatastate negli anni 50-60, invece lussuosi appartamenti in centri storici di città, e che usufruiscono, stortura delle strutture, a volte anche dell'abbattimento del 50% in quanto storici. Sicuramente anche andare a dare l'avvio, pochissimi comuni l'hanno fatto, circa un migliaio, ai commi 335 e 336 della finanziaria del 2005, che vanno in pratica a riequilibrare attraverso un parziale classamento il valore medio del mercato con quello delle rendite, e ritengo che questa attività, quantomeno nell'immediato, supportata da professionisti tecnici, e come dicevo, insomma, i geometri sono storici sostenitori di questo tipo di attività, e con l'aiuto dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate si possa quanto prima divenire ad un riequilibrio, una maggiore equità dell'applicazione del fisco immobiliare, in chiave molto più allargata, non soltanto rispetto a quella esclusivamente dell'IMU, che ci vede, diciamo così, protagonisti tutti i giorni, se vogliamo anche un po' in modo negativo, ma dando risposte che non sempre sono confortanti per l'ascoltatore. In attesa che tutto questo avvenga, intanto confrontiamoci invece con la scadenza imminente, che è quella di lunedì prossimo. Dentro questa settimana milioni di contribuenti sono chiamati appunto a versare l'acconto IMU. A proposito della rendita catastale, che è uno di quei parametri fondamentali che vengono utilizzati per la determinazione appunto di quanto va versato, relazionata naturalmente alla rendita anche alle aliquote che sono stabilite dai comuni dove si abita. Cristiano Dell'Oste, quante trasmissioni abbiamo fatto lo scorso anno con la formula famosa, te le ricordi? L'abbiamo detto un po' di volte. Esattamente. Claudio ci scrive su salvadanaio@radio24.it: in mancanza di aliquote approvate dal comune per l'anno in corso, certo, per il pagamento dell'acconto si considerano le aliquote dell'anno precedente o quella dello 0,76 per 1000, il moltiplicatore da usare è ancora 160? Ecco, queste sono una bella domanda, perché così ci consente di chiarire un punto molto delicato, perché la maggior parte dei comuni nel 2013, appena il governo ha fatto balenare l'ipotesi di uno stop all'acconto, si è fermata con le delibere IMU, che potranno essere prese anche più avanti. Allora, in questo caso, se il comune non ha deliberato, si usano le aliquote decise nel 2012 dal comune, quindi attenzione, non le aliquote base statali, ma le aliquote comunali deliberate nel 2012 e pubblicate sul sito delle finanze. Quindi basta andarsi a riprendere, insomma, la delibera, andrà poi decifrata perché alcune sono un po' complesse, però insomma quello è il riferimento. Per rispondere all'altra domanda, invece, il moltiplicatore per quanto riguarda le case è rimasto invariato, quindi è 160. Lo stesso vale anche per le pertinenze: 160 è lo stesso moltiplicatore che si usa per i garage, per i box auto, le cantine e così via. L'unico moltiplicatore che cambia quest'anno, che aumenta, è quello dei fabbricati produttivi del gruppo D, con l'unica eccezione dei D5, che sono le banche e le assicurazioni, che passa da 60 a 65. Allora andiamo adesso alle domande all'800240024, anzi torniamo alle domande, ne prendo un paio così poi ne metto insieme appunto diverse per rispondere a tutti assieme. Sandro dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, ci dica. Senta, mio figlio ha comprato un piccolo appartamentino che inizialmente erano degli uffici, che il costruttore ha ristrutturato facendogene uscire degli appartamenti, sì. Il mutuo che paga, passato dal costruttore, c'è scritto mutuo prima casa. Tocca che mio figlio a pagare l'IMU? Allora, aspetti lì Sandro, penso che il costruttore abbia fatto tutto quello che doveva fare, se li ha Mirko Mion, ristrutturati. Regola d'arte, quindi ha trasferito la proprietà, indipendentemente che prima fossero, come dire, adibite ad un utilizzo diverso, avrà dovuto quindi, ma questo anche il notaio l'avrà sicuramente verificato, nella fase di trasferimento di proprietà ci sarà stato anche una variazione di destinazione d'uso e quindi a civile abitazione, con un'ulteriore pratica quindi DOCFA di variazione di destinazione d'uso. Il figlio dell'ascoltatore avrà quindi acquistato a regola questo immobile e se oggi è proprietario, risiede, domicilia in questo piccolo appartamento, sarà in questa fase esonerato dal pagamento della rata del 17 di giugno. E quindi insomma, come può fare Sandro per essere totalmente sicuro che l'accatastamento sia regolare? Beh, insomma, io credo che intanto potrebbe andare a vedere all'interno dell'atto e verificare con il notaio o in ultima istanza, con grande semplicità, fare una visura catastale presso uno studio di un professionista. Però insomma, recuperi il rogito firmato davanti al notaio. Di fare queste misure attraverso il sito dell'Agenzia Oggi delle Entrate e Prima del Territorio, che sono state, come dire, fuse insieme. Allora, inserendo il proprio codice fiscale potrà fare una verifica innanzitutto che abbia la destinazione d'uso corretta. Allora, intanto in realtà mentre eravamo in pausa con Cristiano Dell'Oste ci eravamo ripromessi di rispondere ad un'ascoltatrice, ce ne sono tantissimi che ci stanno scrivendo, ritornando appunto sul tema del diritto di abitazione, perché Marina ci scrive: con la separazione il giudice mi ha conferito il diritto di abitazione appunto nella casa che è dei miei ex suoceri, chi deve pagare l'IMU? Anche in questo caso vale il principio del diritto di abitazione, quindi è Marina che deve pagarla, Cristiano? Allora, questo è un caso abbastanza complicato perché secondo la legge, quando c'è una separazione, facciamo un esempio banale, marito e moglie, la casa di proprietà del marito o anche la casa in comproprietà tra i due coniugi, e questa casa viene assegnata alla moglie, non c'è dubbio che con l'IMU la moglie ha diritto di abitazione e quindi deve pagare. Deve pagare lei, deve pagare l'imposta e se ovviamente come capita ci risiede, per lei sarà abitazione principale. Quindi attenzione, nel caso di quest'anno beneficia della sospensione. Qual è il problema? Il problema è quando la casa non è di proprietà dei due coniugi, ma è ad esempio, come in questo caso, dei suoceri. Allora qui siamo rimasti con un punto di domanda aperto. Nell'ordine delle interpretazioni. Esatto, nell'ordine delle interpretazioni. L'orientamento, diciamo, più accreditato, pur con vari dubbi, è che in questo caso non ci sia il diritto di abitazione a favore della moglie, quindi dell'assegnataria, della ormai ex moglie, diciamo così. Quindi, per rispondere alla nostra ascoltatrice, l'IMU dovrebbe essere a carico dei suoceri, che ovviamente, non avendo residenza, pagherebbero come seconda casa. E intanto lei però deve dirimere questo dubbio entro lunedì prossimo, quindi speriamo che non si scateni un'altra lite familiare, visto che c'è già stata una separazione di mezzo. Tornando invece all'esempio della vedova che hai fatto prima, Cristiano, ne ripesco anche un altro di SMS. L'ascoltatore scrive, l'ascoltatrice: lei ha diritto di abitazione sulla prima casa e l'imposta tocca a lei, ma su eventuali seconde case chi paga l'IMU, lei o i figli, tenendo conto che l'usufrutto ce l'ha solo lei? Allora, diciamo questo, che in linea di principio sulle seconde case si va per quote di proprietà, punto e basta. Quindi se c'è una seconda casa che è per metà della vedova e per metà del figlio, pagano al 50% ciascuno. Se poi, come in questo caso, ci fosse un diritto di usufrutto, perché magari nell'eredità è stato previsto, insomma, per le varie regolazioni che possono essere intervenute nel corso della successione, allora vale di nuovo la regola generale, quindi paga l'usufruttuario. Giovanni dalla provincia di Alessandria, le faccio fare velocemente la domanda, poi le rispondiamo dopo la pubblicità. Ci dica. Buongiorno a tutti. Io ho dei terreni, io e mia madre abbiamo dei terreni che coltiviamo, io sono coltivatore diretto, che sono edificabili. Io volevo sapere se anche su questo tipo di terreni, visto che come coltivatore diretto non pago sul valore venale ma sul valore dei redditi catastali, se anche su questi tipi di terreno c'era la sospensione della conto IMU. Grazie Giovanni, le rispondiamo tra qualche istante. Tra l'altro credo che un caso simile sia stato proposto anche nella settimana scorsa. Dopo Giovanni d'Alessandria sento anche Egildo dalla provincia di Ancona e così poi rispondiamo a tutti. Egildo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora guardi, io sono proprietario di un capannone diviso in due unità immobiliari, una parte è affittato, cioè l'affittuario è a posto, l'altra parte più grande invece era affittato e purtroppo l'affittuario ha fallito, è sotto sequestro da parte del comune da oltre un anno e mezzo, da parte del tribunale, e io non ne posso essere non ne posso utilizzare perché dentro ci sono apparecchiature semifisse come forni elettrici, forni a gas, celle frigorifere, quello d'aria, e di conseguenza fin quando non portano via quella roba lì, io non ne posso usufruire. Certamente. Chiudo con le catena e a posto. E quindi lei dice, oltre il danno la beffa, ci devo pagare pure l'IMU qui sopra? Euro di affitti perché no, è fallito già un anno e mezzo, Io l'ho pagato prima sempre il limo, oggi non intendo pagarla per quella parte lì, perché non è mia disponibilità. Certo, e Gildo, aspetti lì, partirei da questo caso, Mion, poi su Giovanni D'Alessandro. Io ho fatto fatica a sentire il signore Gildo. Allora, ha un capannone diviso in due, una parte è affittata, l'altra, lo stesso, era affittata, ma praticamente c'era una piccola attività industriale che è andata in fallimento. In questo momento è sotto sequestro e Gildo non ne può neanche disporre perché appunto c'è questo sequestro. Oltretutto è occupata di macchinari della precedente attività industriale. Lui dice, fino adesso ho fatto tutto quello che dovevo fare, ma visto che da oltre un anno non ne posso neanche disporre, non capisco perché ci devo pagare l'IMU. La deve pagare peraltro? Beh, guardi, questa è la mia opinione, che debba pagare. Al principio purtroppo è quella di una tassa patrimoniale, quindi va a colpire il patrimonio, lui ne tiene la proprietà e la procedura fallimentare non è prevista. Quindi lui non può neanche giustificare, ecco, certo, non ne percepisce più l'affitto, naturalmente era tutto questo tempo, per cui niente, il disappunto è ragionevole, ma la norma è chiara, giusto Mion? Giusto. Dico, il tipico caso anche adesso degli affitti, laddove ci sono degli inquilini morosi che pagano le rate d'affitto, addirittura ci sono gli sfratti esecutivi in esecuzione. Però per la proprietà non cambia nulla. Non sottrae, purtroppo non c'è una clausola cosiddetta di salvaguardia rispetto a questo tipo di situazioni, quantomeno in questo momento. Cristiano, invece Giovanni d'Alessandria, che parlava appunto di questi terreni che sono edificabili, ma lui li coltiva, questo non lo esenta, credo, al pagamento. Esatto, perché purtroppo si tratta di aree edificabili. Questo è un problema che abbiamo affrontato anche nella guida di oggi, perché si pone in modo molto frequente, soprattutto per i terreni agricoli collocati, diciamo, sul limitare delle città o sul limitare dei centri urbani, e che spesso sono quindi inseriti all'interno dei piani regolatori. Di fatto sono campi coltivati, ma esprimono una potenzialità edificatoria, e in questo da questo consegue la tassazione. Poi chiaramente cambia anche la base imponibile, l'ascoltatore lo diceva, perché se i terreni agricoli vanno con reddito agrario e reddito dominicale, le aree edificabili invece sono tassate in base al valore di mercato al 1 gennaio di ogni anno. Poi stabilirlo spesso è anche un po' complesso, ci sono i comuni che deliberano degli indici che, se vengono adottati e vengono utilizzati come riferimento per pagare, tengono il contribuente al riparo da eventuali contestazioni future. Altro caso piuttosto diffuso: chi ha una proprietà in Italia ma lavora all'estero, qua non capisce come ci si deve comportare. Mario dalla provincia di Siracusa in questo caso parla a nome del figlio. Mario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, mio figlio ha comprato un appartamento a Siracusa. Sì. Lui dove è residente? Risulta un residente a Siracusa. Ed è iscritto agli elenchi AIRE degli italiani residenti all'estero. Lavoro, sì. Ecco, che è residente all'estero. Deve pagare la IMU per la prima casa, per come seconda casa, oppure no? Tra l'altro questa casa adesso la abita qualcuno, è libera, perché lui è alla residenza qua. Incomodato d'uso, sì. Benissimo Mario, allora Mirko Mion, ritorno da lei. Questa casa, il figlio di Mario lavora in Francia da 10 anni, ha però questa proprietà a Siracusa, dove ha stabilito anche la sua residenza, anche se la casa in questo momento è data incomodato d'uso a suo nonno, se non ho capito male. Come deve comportarsi il figlio di Mario con il fisco italiano? Diciamo che a seconda di quello che sarà deliberato dal comune, l'abitazione del figlio dell'ascoltatore potrà ritrovarsi all'interno di quelle categorie delle prime case assimilate, cioè tutte quelle case che sono proprietà di un individuo che risiede all'estero, e quindi potrebbe essere assimilato questo immobile all'abitazione principale della sospesa del pagamento della. Quindi della Mario deve affrettarsi ad andare in comune a capire se appunto potrebbe essere oggetto di una cosiddetta assimilazione, che mi rendo conto è magari un termine un po' complicato per il nostro ascoltatore, però deve rivolgersi lì. Sì, e stabilire se c'è una delibera appunto su questo caso, su questi casi specifici. Come abbiamo fatto i casi, questi ci sono citati nella circolare che abbiamo citato più volte, 2DF 23 maggio, nella quale anche le abitazioni di proprietà di persone anziane o comunque malate, ricoverate in via stabile all'interno di case di cure e non affittate, chiaramente possono essere assimilate a seconda del regolamento comunale ad abitazione principale, quindi vedersi esentate in questa fase dal pagamento della prima rata. Allora, per tutti coloro che non hanno una risposta e non riescono ad intervenire in diretta, scriveteci, perché in questi giorni tutta la squadra di Agefis insieme a Cristiano Dell'Oste e Mirko Mion, e non perché Cristiano sia un geometra fiscalista, ma insomma ci stanno dando una mano mano a rispondere a tutti i vostri ultimi dubbi, per cui chi non viene accontentato oggi ci scriva a salvadanaio@radio24, perché siamo a vostra disposizione appunto per queste ultime ore. Rapidamente, non riesco a sentire Gaetano dalla provincia di Milano sul tema dei box, però volevo con Cristiano chiarire in 40 secondi l'ultima questione che ci pone un ascoltatore che vive in un comune che ha deliberato un'aliquota inferiore a quella dell'anno scorso. Siccome dobbiamo calcolare appunto l'acconto da effettuare entro il 17 con le aliquote vecchie, ma quella nuova sarebbe più favorevole, cosa deve fare? Allora, diciamo che la legge, così come è stata convertita, è un emendamento inserito nel decreto sui debiti della PA, dice che bisogna fare riferimento alle aliquote 2012, anche se quella del 2013 è più favorevole. Poi abbiamo la stessa circolare che citava poco fa Mion. Sì, la 2 del Ministero delle Finanze del 23 maggio. Esatto, che dà la possibilità fino alla conversione in legge del decreto, che però è già avvenuta, di utilizzare eventualmente le aliquote del 2013. Mm-hmm. Più favorevoli per il contribuente. L'opinione che noi abbiamo riportato più volte sul Sole 24 Ore è che se il contribuente utilizza comunque le aliquote 2013, essendo le aliquote del comune, non potrà essere sanzionato. Grazie ad entrambi. Non posso darvi in questo caso appuntamento la settimana prossima, però sicuramente vi inonderò di mail. Grazie a Mirko Mion, buona giornata. A lei e a tutti i radioascoltatori, grazie, un caro saluto a grazie, tutti. Grazie molte per tutta la sua disponibilità di queste ultime settimane, lo stesso vale per Cristiano, noi grazie. Ci sentiamo domani, buona giornata. Salva Danaio.